Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro e ben ritrovati ad uno degli appuntamenti di Radio 24 con il mondo dell'autotrasporto, della mobilità e della logistica. In Italia l'età media dei TIR cresce e rispetto ai paesi della cosiddetta vecchia Europa è tra le più alte. A dircelo sono i dati elaborati e diffusi da Eurostat. In particolare è emerso che solo il 45% delle merci in viaggio via gomma è trasportato da TIR con meno di 5 anni. Il 40% transita su veicoli tra i 6 e i 9 anni e il 15% su mezzi con oltre 10 anni. Mezzi più vecchi significa mezzi più inquinanti e meno sicuri. Giusto per rendere l'idea, le emissioni nell'ambiente di un TIR Euro 6 sono 16 volte inferiori rispetto a quelle rilasciate da un TIR Euro 0. Tornando ai dati, è la Germania il paese che può contare sulla flotta più moderna, addirittura l'83% delle merci viaggia su TIR con meno di 5 anni. In questa graduatoria seguono Lussemburgo, Gran Bretagna e Francia, in fondo alla classifica c'è la Grecia e si posizionano nelle zone basse anche Bulgaria, Polonia e Portogallo, un dato quest'ultimo che deve far riflettere. Quelli che ho appena citato infatti sono alcuni dei paesi che negli ultimi anni hanno aumentato in maniera talvolta esponenziale la loro quota di mercato nei trasporti internazionali, sfruttando anche pratiche illegali come il cabotaggio abusivo e il dumping sociale, fenomeni che hanno sconvolto il settore. In qualche modo è già qui una spiegazione del perché in Italia il rinnovo delle flotte è più lento. La crisi ha picchiato duro e le varie forme di concorrenza sleale hanno impoverito le aziende e ostacolato gli investimenti. Va detto che grazie ad una serie di agevolazioni e sostegni come il superammortamento, nel 2016 il mercato dei veicoli industriali aveva subito una decisa impennata. Il 2017 è iniziato bene, ma ora si assiste ad una frenata con i dati che hanno svoltato in territorio negativo. A giugno la stima delle immatricolazioni di veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate segna una diminuzione del 2,4% rispetto allo stesso mese del 2016. Per i veicoli pesanti superiori alle 16 tonnellate le stime per il mese di giugno fanno registrare una flessione dello 0,6%. Ancor più significativo il trend negativo di rimorchi e semirimorchi. A giugno il calo delle immatricolazioni sfiora il 12%. Per un'analisi del mercato tra segnali e prospettive ci siamo rivolti a Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali di UNRAE, l'Unione dei costruttori esteri. È il secondo mese che vediamo un calo importante nel settore dei veicoli industriali al di sopra delle 16 tonnellate e anche dei rimorchi che fanno parte del suo settore, in quanto penso che da questo punto di vista due siano gli aspetti importanti. Il primo è degli incentivi che stanno venendo avanti e che tardano ad arrivare, come tutti gli anni arrivano sempre verso il fine anno, e questo sicuramente blocca un po' le vendite. Ma la seconda più importante è l'attesa che c'è di come potrà andare l'economia, che per certi aspetti sembra molto positiva, sembra che nel futuro ci sia il PIL in aumento, ma è molto importante che tutto l'aspetto di aiuti che vengono dati, che non prendiamoli come aiuti, ma prendiamoli veramente come un sostegno alla sostenibilità e alla sicurezza nelle strade, quindi un ricambio veloce del parco circolante, sino deve vedersi strutturali, avere la possibilità di vedere nel tempo questi incentivi che continuano senza avere sempre questo problema dell'avvicinarsi al fine anno dove la gente sa o non sa quello che possa succedere e quindi mette in gioco molto il settore. La seconda cosa è la speranza che veramente il PIL cresca, l'economia continui a crescere, perché è chiaro che strutturalmente il paese è ancora molto debole e da questo punto di vista il settore del trasporto e della logistica ne risente, a volte anche a favore di vettori stranieri che vengono a prenderci lavoro in Italia. E ora viriamo verso il nord-est, torniamo al Brennero e dintorni, trascinati dall'attualità. Due sono gli spunti: il primo riguarda la questione immigrazione con l'Austria che è tornata a minacciare la chiusura delle frontiere. La CGA di Mestre ha quantificato il flusso di merci che transita al Brennero, si parla di 42 milioni di tonnellate, due terzi viaggiano via gomma, un terzo via ferrovia. È stato poi calcolato che un eventuale irrigidimento dei controlli alla frontiera con un allungamento dei tempi di almeno 2 ore costerebbe 120 euro in più per ogni TIR, con un aggravio di costi che finirebbero per scaricarsi sui prezzi finali dei prodotti. È da un anno e mezzo ormai che Vienna agita lo spettro della chiusura delle frontiere. Sulla linea di confine del Brennero l'estate scorsa è stata anche installata una barriera mobile pronta per essere innalzata. Finora però non è mai accaduto nulla. Thomas Baumgartner è il presidente di Anita. Ma io credo che il presidente della provincia Torino in Bolzano, Compaccia, l'abbia detto correttamente. In Austria c'è il periodo preelettorale e vengono un po' messo in voce, parlato di queste cose qua. Senz'altro non succederà niente, perché i traffici di immigrazione in Austria non c'è, senz'altro l'Austria è responsabile, non faranno questo alzamento dei muri che sarebbe un danno per tutti, però non ci credo proprio, come non ci credevo neanche un anno fa, e fino ad oggi non è successo niente. Rimaniamo al Brennero, o meglio sull'auto Brennero. Nei giorni scorsi si è parlato dell'imminente introduzione dell'Eurovignetta, cioè di un extra pedaggio per i mezzi pesanti imposto sulla base della classe dei veicoli. In realtà la questione, come prevede la norma, si pone all'atto del rinnovo della concessione, quindi non se ne parla a breve. Al nostro microfono l'amministratore delegato di Auto Brennero, Walter Pardacher. C'è la direttiva Eurovignette, che è una norma europea, che peraltro è stata anche già trasformata in normativa italiana, e questa normativa prevede che le nuove concessioni autostradali dovranno prevedere la cosiddetta Eurovignette, che è tra l'altro un aumento di pedaggio in funzione della classe Euro dei veicoli pesanti. Ecco, dunque c'è una notizia che sulla 22 ci fosse in futuro questo aumento ci sarà, ma solo in collegamento con la nuova concessione come previsto dalla norma. Mentre per intanto, in questi prossimi anni, fino a quando non ci sarà la nuova concessione, non c'è nessun aumento del pedaggio di questo genere. E ora sentiamo su quali basi sull'auto Brennero, come peraltro sulle altre autostrade, potrebbe articolarsi l'applicazione dell'Eurovignetta per i mezzi pesanti. Per ogni veicolo deve essere definita la classe Euro del motore, e in funzione di questa classe Euro poi ci sarà un aumento del pedaggio. La classe Euro più moderna, attualmente sarebbe l'Euro 6, invece non paga nessun aumento del pedaggio. Peraltro questo schema prevede che questi aumenti di pedaggio non sono incassati dal concessionario, cioè non fanno parte del piano economico finanziario, ma devono essere devoluti a dei progetti ambientali. Dunque si incassa sì come concessionario, però non si può ottenere questi soldi, perché vanno trasferiti immediatamente a un conto dedicato. Prima si parlava del dumping sociale, fenomeno che ha distorto il mercato dell'autotrasporto, mentre, come già vi dicevamo nelle scorse settimane, alla Commissione Lavori Pubblici del Senato si lavora su un emendamento nell'ambito del decreto Sud che vieti anche in Italia il riposo settimanale in cabina. Sul fronte delle misure di contrasto alla concorrenza sleale, una notizia arriva dal Lussemburgo. Il governo del Granducato ha chiarito che la nuova norma sul distacco internazionale riguarda anche gli autisti dei veicoli industriali stranieri che svolgono attività di carico o scarico all'interno dei confini del paese. A darne notizia è l'associazione Assotir, secondo la quale Bruxelles sarebbe pronta ad aprire una procedura di infrazione contro il Lussemburgo perché la norma risulta in contrasto con i principi comunitari. È già accaduto con Francia e Germania. Il prossimo weekend, e ancor più il primo fine settimana di agosto, sulle strade l'atmosfera si farà ancora più rovente per i grandi flussi di traffico in direzione delle località di villeggiatura. Per agevolare il transito sui 26.000 chilometri della rete che gestisce, ANAS ha annunciato che rispetto allo scorso anno si incontreranno un po' meno cantieri, circa il 30% in meno. Quelli che resteranno attivi, giusto per dare qualche numero anche qui, saranno 162, 35 dei quali aperti su autostrade e raccordi. Tra queste autostrade c'è la 2, l'autostrada del Mediterraneo, prima si chiamava semplicemente Salerno-Reggio Calabria. A giugno su questa direttrice si è registrato un aumento dei flussi di traffico pari al 9,2% rispetto a 12 mesi prima, ma più in generale da nord a sud circolano più veicoli leggeri e pesanti. Al nostro microfono l'ingegner Roberto Mastrangelo, responsabile della gestione rete di ANAS. Stiamo notando un crescendo di aumenti di volumi di traffico, questo lo stiamo rilevando già negli ultimi due anni, soprattutto nel periodo estivo. Per la verità l'aumento del traffico lo stiamo rilevando durante tutto l'arco dell'anno. Questo è anche un segnale importante. Rileviamo altresì che il traffico non è più concentrato soltanto in alcune giornate o in alcuni giorni della settimana o del mese, ma mediamente è distribuito lungo tutta la settimana. Questo è sicuramente un segnale di un cambio delle abitudini dell'organizzazione della vacanza, è sicuramente un fatto molto molto positivo sia per la gestione del traffico sia per gli utenti che non trovano quei periodi di traffico molto molto intenso, ma il traffico essendo più diluito quindi garantisce una sicurezza della circolazione sicuramente maggiore. Hashtag Autotrasporti oggi finisce qui, grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.